e c'era una moto con due ragazzi a fianco alla macchina, no? E con la coda dell'occhio ho visto che c'era quello calaguida, sta guardando verso su, verso l'antenna e ridretta. Capito perché i baracchini pigliano in giro. Come ci ho girato con lo sguardo, me lo sono guardato in faccia, è diventato serio, ho rimesso di ridere. Cioè il baracchino lo pigliano come una cosa del cacchio, capito? Una cosa che fa ridere. Non lo sanno che praticamente quando non c'era internet questo era il mezzo di comunicazione più usato da tutti. E a parte quello, non sanno che è l'unico mezzo che se manca corrente eccetera eccetera, in calamità e cose si usa proprio il baracchino, la radio, diciamo anche radiomateriale, il baracchino, i trasmettitori in effetti sono l'unico mezzo di comunicazione. Sì, tanto se manca la corrente, basta avere una batteria, o andare in macchina e fai da ponte, fai il soccorso, quello che è, tipo all'Aquila, per esempio. Sono belli anche gli apparati di 43 mega, solo che sono per uso civile, così, no? Per taxi, per chi ha aziende, per chi vuole fare vigilanza, non è per i CB. Una volta i canali lì erano i canali di sotto, ti ricordi 0.8, 0.7, 0.6, guarda che erano eccezioni. Capo, noi usavamo anche noi dove faccio la servizio ambulante. Oh, a 43 mega, oppure i VHF. 43. Prendi. Io ne conosco due tipi, c'è l'Intec, l'SG, volente, e poi c'è uno dell'Alan, tutto nero grigio, mi ricordo, che ha i LED anziché l'indisplay del CD. Mi pare che ce ne sono solo due modelli in Italia, di apparati a 43, non ce ne sono altri. E non è che abbiamo successo, chi lo sai. Addirittura l'Intec non lo produce più e l'Alan mi pare che ci abbia fondi di magazzino da smaltire. E abbiamo quello dell'Alan? Però la gente è stupida, sai perché? Perché magari chi ha aziende ce ne va in VHF, no? 160, e non lo sa che i 43 MHz invece sono migliori, perché il segnale è più basso di frequenza e si propaga meglio. E noi abbiamo il VHF, però non li potevamo ottenere, ci siamo informati, quindi abbiamo questo e abbiamo messo quello. io ti volevo un telefono. Prendimelo. Era per casa, vieni qua tu. Che no? Robe, vieni. Metto qua con tuo padre. Cosa? Tipa perché stamattina in corsi per far promuovere la figlia. In corsi per? Praticamente doveva l'esame di maturità, la figlia ha chiesto di incontri a questa sicuramente presunta professoressa, lui ha detto vabbè non ti preoccupare che già passa, non ti preoccupare che ci penso io. Ma invece quando negli anni 90 quando c'erano i telefoni che erano ascoltabili, no, che non erano cristiani, sentivi tutti di più e sentivi anche quelli che chiamavano il telefono erotico per cellulare. Sì, poi servizi a pagamento, una volta si sentì il telefono erotico con lo scanner, questo ascoltava e poi diceva per le giapiture che dicono, no? E poi sentivano ansia, gente che assimava, che veniva in diretta, uno schifo era. Non ascoltare qualcosa. Sì, una cosa del genere, cioè sì, una volta mi ricordo che proprio Falcone era proprio nella fase più calda, è andato Modigliani a casa sua, ha bussato, è scesa la madre, gli ha fatto sentire e ha detto ma lo sente suo figlio del portiere fa il bacino, allora è salita la madre a casa e gli ha dato uno schifone. Ma ho detto, non lo so, poveraccio. Pure ogni malato di mente c'è la sua fissazione, diciamo, a quella del sesso, eppure in modo sbagliato, almeno avesse avuto quello del sesso giusto, una cellula, quello del sesso, lo stesso sesso suo. E la maniera di i peli, e meno male che all'epoca non c'erano leggi contro l'adescamento, se l'avesse fatto adesso con le leggi sui minori, guai. Avrebbero arrestato una federata. Macconino, ah, il Macconino qua. Ti voglio bene. Oh, io ti voglio bene. E tutto diceva, picchiami, fammi male, di tutto. Lui gli ha fatto il picchio. Ah, come sentire il pelo. Ehi, mamma mia. Passaggi che faceva da un'ora, cioè una volta ha fatto passaggio da un'ora e mezza, ma dopo gli ha mollato, gli erano resi di tutti i colori. Antonio, ti sento? Mi ha detto mia moglie per mia figlia, mi ha detto passaggio da portare. Già, sono voce di marito. Esatto. E io vabbè. Sai cos'è che c'era? Ho fatto una gaffa. Ho fatto la grossa gaffa, c'era un'amica sua a casa e io dicevo la tratta delle disabili e sono entrati i buddani. Contro del PC fuori. E cosa è successo anche a me? Ero a casa da solo, sono andato a lavoro, mi stavo facendo il bagno. Niente, poi come ero lunedì crudo sono uscito per accendere la radio, perché io avevo bisogno di una bella musica, sono uscito a accendere la radio, dovevo andare a vestirmi, naturalmente sono entrato mia moglie e mia suocera con le chiavi. Ma gli azzicchieri, guarda che le addurbano. Tipo le gaffe che si vedono nei film americani, no? Bello, cavagalo, poi vabbè cose che succedono sono. Io non so cosa c'è, che in casa sono abituato a stare a pettugolo, perché soffro un mercato perché non si fuori. Altre volte non c'è cazzo di cinema, altre volte sta anche in un bandocci. E non si possono abbassare i musiconi con la manopolina, no? Sì che si possono abbassare, però se li abbassi brontolano le donne perché sono più freddose, capito? Ah, ho capito, capito. Tanto ti sento un po' giù stasera, non è vero di scherzare, ti vedo strano. Ma io? E io? Sembra, non lo so, non è un po' devono avere cambiamento di tempo. In questo periodo sta apprezzando molto il letto. Avevo un po' di stanca stare in vigua. Già la stamattina mi si è svegliato già stanco. La sto per cambiare. Ma forza, perché ti sta lasciando andare tu. Bisogna che ti cerchi un lavoretto e cominci a darti da fare. O magari una ragazza, così mi do da fare lo stesso in un altro senso. Ma la ragazza poi non la puoi, non la puoi campare se non la vuoi. Quello è il problema già, che purtroppo le ragazze vogliono essere sposate e io di matrimonio francamente non ne voglio sentire, perché non ho un appoggio economico. Se avessi l'appoggio economico forse lo prenderei in considerazione, ma nemmeno. E tu sei giovane, comincia a pensare a farti una posizione. E poi le cose vengono insieme anche. Se vengono insieme ben vengono. Però naturalmente hai sempre le spalle coperte. Se devi portare la tua ragazza a ballare o al ristorante o da qualche parte hai i soldi per farlo. Diversamente che cosa fai? Non puoi stare copulando tutto il giorno. Copulando? No, quello ce l'ho, non è il trespago, ce li ho i soldi, perché ne tutto parecchio. Però per cose magari più grandi con matrimonio, non ne voglio sentire questo. Sono allergico al matrimonio, capito? Gli amici che avevo, che si sono sposati giovani, che si sono voluti sposare giovani, convinti di avere le idee chiare, sono tutti separati, tutti quanti. Ma quella è una cosa che può succedere, anche perché come tutte le cose l'amore ha un inizio e una fine. C'è chi riesce a sopravvivere anche senza amore, che magari è affezionato e cose del genere, c'è invece che chi non riesce a affrontare, se non c'è l'amore dice cosa ci stiamo a fare insieme, non riesce a affrontare la vita insieme, capito? Dipende, anzi, prima era diverso, perché c'era la sopportazione, si viveva in due, si decideva in due, adesso un po' uno può decidere da una parte oppure decide dall'altra, si contrattano le cose, insomma, poi l'uomo che deve lavare i piatti, non ci sono più... Non ci sono più le cose come erano una volta, capito? Io mi ricordo mia madre che aspettava mio padre affacciata alla finestra, che tornasse dal lavoro e gli preparava subito l'asciugamano pulito e questo e quell'altro, era tutta piena di attenzione nei suoi confronti. Adesso queste cose non esistono più. E poi dico una cosa, se l'uomo vuole anche cucinare, lavare in terra, lavare i piatti, può tranquillamente farlo, ma non deve essere obbligato. Invece adesso ci sono donne che lo pretendono proprio, capito? Io amici che si sono separati proprio per questi motivi, ci cazzate, però mi dicevamo per cazzate, perché la donna, mia moglie dice, pretendeva che sto lavoro da lavoro, poi mettesse a lavare i piatti, a fare questo, a fare l'altro, mi lasciava riposare 5 minuti. Così no, diciamo che non ci sono più le donne di una volta, e non devono pretendere troppo però le donne. Adesso poi, capito, sono più indipendenti, si fanno gli affari loro, se ne sono le amiche, eccetera, eccetera. Ma, che devo dire? No, di questo adesso per pulirle diventiamo tutti croci. No, ma ben venga il fatto di uscire con le amiche, perché noi non lo facciamo. A me se mi capita per dire di uscire con Antonio, andiamo, usciamo, non a me non mi rompe le scarpe, dico la verità. Se ti chiede di andare a fare una pizzata, a cosa mi interessa? Ah, vabbè. No, ma io la donna non la voglio troppo, come dire, la voglio un po' sottomessa, in poche parole. Come troverai mai donne così? Allora, con piacciato gli altri malenga. Guarda, le donne adesso farsi sottomettere, a parte che come un cane da caccia, che lo vuoi a mano duia, il cane da caccia per adesso non la conta, però. Sì, poi vabbè, non dico sottomettere. si inventano un tradimento, no? Dicono che è tradito, eccetera, eccetera, chiedono un divorzio e ti cacciano fuori da casa tua, capito? Loro ci tengono la casa, facciamo il figlio, e tu te ne devi andare in casa e cercarti una casa fuori. E purtroppo certe usano anche questi mezzi. È successo a mio zio, è successo a mio zio, capito? E purtroppo è così, cosa capita? Ma non è più così, le leggi sono cambiate. Non è detto che per forza ti devi mettere fuori di casa. Io per dire un amico che si è separato, aveva una bella casa, tutto quanto, macchina, hanno venduto tutto quanto, hanno diviso i soldi in due e ognuno si è fatto la sua posizione. Lui si è preso la casa da una parte, lui si è preso la casa dall'altra e niente, si sono accordati, la diciamo. Perché lì erano civili loro, era una coppia civile, ma certe donne non sono così. Quindi finché non ti lasciano mutate non sono contento, capito? No. E vabbè, può succedere, io non posso dire nulla. Può succedere a tutti, però naturalmente io dico la cosa, chi semina male raccoglie male lo stesso, non può raccogliere il frutto se non semina bene. Però certe sono troppo sincere, vogliono sapere una cosa, poi sono tutta un'altra cosa, ma speriamo che non me ne capiti mai di una così, gli altri erano più tranquilli. E che volevano essere sposati, capito? Quello è sempre il difetto principale. Beh, magari non è un difetto, non è per te, perché magari non puoi adempiere a questo, diciamo dovere, se così lo vogliamo chiamare. Ma non è che sia un difetto, è una cosa naturale che uno, dopo che ci sta un po' di anni col ragazzo e che l'hai sposato, poi sono quelli che non ci credono, il matrimonio è una cosa diversa, ma la maggior parte è così. Io non ci credo molto, io dico vuoi stare con uno, convinci, lui deve fare la sua e tutto, però alla prima che ti convina la mandi via. La convivenza adesso è diversa da prima, non è più come prima, è una questione di comodità quella di capito, secondo noi, ma come parla tutto adesso può dire una questione di comodità, la mandi via e tu te ne stai con la casa, capito? Nella coppia certe cose non devono esistere, secondo me dovrebbe essere tutta una cosa fatta in comune, decisa in comune, eccetera eccetera, se si vuole andare d'accordo, se se uno decide una cosa l'altro decide l'altra, buonanotte. E soprattutto in caso di matrimonio separazione dei primi. Avevo un amico che lo credevo un po' materialista quando mi diceva certe cose, ma invece lui mi sono reso conto che non aveva tutti. Lui diceva, io per dire ho intestato una casa a me, abbiamo due case, una casa a me e una casa lì. Poi ci abbiamo la separazione dei beni, ci abbiamo i conti separati in banca, tutti e due, capito, lavorano in banca, hanno due case, c'è la campagna, c'è la casa al mare, eccetera, eccetera. Hanno separato tutto, una a te e una a me, ma omogeneamente, naturalmente, quello che ha uno all'altro. Però per dire, nessuno rimane con la sede all'interno se si dovesse separare. Ah, ma quello è, cioè, non separato la roba, pare. No, io intendevo la separazione di tutti, anziché la comunione. Praticamente quello che è mio resta mio, quello che è suo resta suo, in modo che non si possa possessare, insomma, di tutto, come ha fatto mio zio. Però poi ci sono donne che proprio fanno con lo scopo, tipo queste polacche, queste qui che si sposano la gente per poi mangiare il lupo. Sì, lo so, certo, sono così, lo fanno proprio tipo. Minchia, l'altro giorno ne ho vista una su Badù. Alta, biondissima, una vecchia. Una vecchia, mi sono sciolto pure. Che ti fanno male. Lo so, mi siamo il segno, ma infatti già non è per me. Niente, si può dire la navetta, Antonio. Sì, ci sono. Hanno un'unità e poi la fuoco come si vogliamo quindi dove conviene il team, là? A chi c'ha tre, chi c'ha questo e quell'altro, però team un po' più gente ce l'ha, tranne un'amica che c'ha tutti e tre, c'ha Wind, Vodafone e team. Due volte con un team, ma il team lo faccio fare fine brutta. Attenzione Gianni! Avanti Sandro, buonasera. Buonasera, ciao Gianni, ciao Luca. Poi non so che ci sia. Chi ci sia? Ascolta già, dammi un cuore in campo generale. E avanti. Ok, vedi un po' perché altro questa modulazione, vedere com'è. E la modulazione dovresti abbassarla appena persa, perché tu qua. Ok, ok, allora vediamo un po', così va meglio? A voglia, così va benissimo. 9:15 segnale, penso che vada bene. Modulazione com'è? Buona, buona. Ok, dai. Allora. Allora. Ehi, siamo in compagnia di Antonio Grosso, di Luca, Manicomio e poi di Marco Condo. Ehi, vai, va bene. Ciao Toni Circolari, ah, Antonio Grosso lo sta modulando. È in condizione precaria, Antonio. Molto, molto precaria, a quanto pare, perché da parte mia non lo ascolto per niente. E cosa, ma stamattina presso a me? Ma non lo so già, sei tu a presso a me o ero io? Una delle due. Evidentemente oggi avevamo il giro uguale. E più o meno. Già, vogliamo già tu. Poi un piatto, qualcuno, non mi ricordo chi. E poi c'avevo lungomare. Ehi, caparai. Sì, vabbè, stamattina diciamo che c'eravamo tutto a Polo Torres, quindi stavo facendo il giro completo di Polo Torres. Va bene, dai, vi lascio. Sono entrato soltanto per verificare qua che c'ho tutto aperto qua, devo richiudere. Vabbè, dai, già. Buono, proseguo, buon tutto. Salutoni circolari alla ruota, dai. Ciao Sacci, sentiamo, dai, buon proseguimento. Salutami il cucciuccio. Avanti, Anto. Salutiamo. Marco. Ehi, mi ha detto di salutare. Per qualche motivo si è fatto il querremio, c'è di tutto. Quindi arriva nel querremio di lui e anche Antonio arriva più basso. Non più, cioè coperto un po' dal corretto. Sì, anche io sento così. Vabbè, se ci sei Sandro, ti salutano tutti cordialmente, ti sentono basso. Che vai a. Luca! Sento bene Sandro, ciao Sandro! Ma loro sono in condizioni precarie per quello, non perché sia colpa di Sandro. Ci mancherebbe già, Ci mancherebbe, se ci sono atto. Sto riparando. Un po' qua a riparare c'è. Sto. Ci vuole buttare un gomma. Poi i fattili sono un po' più delicati. Anche più piccoli, infatti le miniature è più difficile da riparare. Se vanno bene, non danno problemi ma ti soltanto. Naturalmente stanno a prendere più dentro, si può rovinare anche l'apertura. Diventa male, quelle cose di sì. Beh, io ho avuto fortuna con quello che ho preso io. L'ho preso, mi pare, nel 2005-2006, un Acer. Ed è nuovo. Gli Acer sono buoni, là. Non c'è da... Però sono buoni gli Acer. Io ho preso l'Asus, capito, che era la marca, una delle migliori che c'è, capito, che era difettoso, scaldava, per la fine si bruciava. Gli Acer sono la macchina da guerra. A fortuna, vedi, io c'ho questo qua, l'ho fatto con la mia amica di Civitavecchia. 8 anni, mi sa, 8, forse altri 10, boh. E va, questa te l'ha formato, giusto così, non stare a perdere tempo, fare pulizie, bomba, ci vuole CD3, te l'ho formato, freddarlo tutto, e va benissimo. Poi una volta lo accende, che non accende più, quello era un peccato, è controllato su internet, oh. Ma Marco, no, la verità oggi no, perché ci sono stato fuoco al computer, l'avevo rispento e adesso non mi ricordo se c'è spento nella trattata, ma già guarderò comunque. Comunque sì, il computer portatile è a culo, perché se ti capita quello balordo mi dà problemi. Io mi ricordo che questo l'avevo preso da Shan, era in offerta, il primo che ho preso era difettoso, all'avvio si bloccava, perché andava male all'avvio, oppure non partiva l'avvio, me l'hanno subito sostituito e questo è andato bene. Comunque sì, gli Asus sono, la reputo una marca la migliore, però anche lì è a culo, può andare bene, può andare male. Capito? C'è nessuno qua. Non c'è dove ci sono. Invece quello che sto usando adesso fisso l'avevo preso in via Bucari nel 2004. Pensa che dal 2004 a oggi funziona sempre bene. È più lento perché ho tutti i programmi, non detto, però se la cava. E tutti dicevano, l'hard disk ha una vita media di 3 anni, dopo 3 anni però non dura. E invece ce l'ho tuttora e va bene. Però mi ha detto il tecnico, l'idea giusta, che dopo 5 anni il computer va cambiato, che bisogna avere un po' di soldi, però su 5 anni bisogna buttarci l'altro e cambiare il computer. Se ti fa male comincia a andarti male. Già, si può usurare l'hard disk, perché l'hard disk lavora, capisci? Ma al tempo su cazzate, boh. Dipende. È a culo, a secondo dipende. Quindi adesso me ne ha portato uno, c'ha lo schermo nero, accende tutto, ma secondo me fa dentro il BIOS lì, di sicuro. Non si può fare niente. Non è nuovo, Si vede che è un PC, che non lo tengono conto. Il mio è vecchio, lo tengo qui, è sempre pulito, lo smonto, qua. Lo tengono conto. Ma io sono andato al gommista l'altro giorno a mettere le gomme del furgone, giusto, c'è quel tipo del computer con tutti i tasti neri, tutto maltenuto, brutto, come ti esorgo, rimani niente, andami e fanno, se ti fanno il preventivo, ti stampano la fattura, la roba del genere, tutto niente, gatto, non si può già guardare. Ma quello lo usiamo per lavoro, purtroppo così. Che ci può mettere un PC, è così, non stanno lì a perdere tempo a guardare lavarsi nei guanti oppure lavarsi le mani, non lo so. Vabbè, adesso dai, ritiro tutto, non ci sto via, non perdo più tempo, se è vero che da formattare o da lo faccio, se no lo stare via a perdere tempo, oppure cambiare il monitor, cambiare hard disk, cambiare la RAM, lo posso anche fare, smontarlo e pulirlo lo posso fare, ma quando si tratta già di una cosa che non è da me, allora non perdo più tempo, ma è solo il tempo perso e basta. La tecnica, ci vogliono gli strumenti, tutti imparano già a fare queste cose, ma non di più. Ci vuole gli strumenti giusti e poi anche la praticità di certe cose, sapere come fare. Beh, comunque diciamo che mi posso lamentare, dai, una parte la so fare, a partire da zero, la spendo ogni volta soldi per formattarlo, non ci spendo più niente già, lo faccio io, tranquillo e sereno. Un tecnico bravo ci mette 3/4 d'ora, un'ora, io ci metto 2 ore, non è un problema, poi sentiamo mi rimango lentamente. voi o fate tutto da meno adesso? Che cosa lo facciamo, il formattaggio lo facciamo anche a casa, però certe cose non riusciamo a fare. La famiglia ha smontato la macchina proprio di quello stazione del laser, diciamo, anche un bivolo di vela nella ventola, hanno dovuto smontare tutto per pulirla, farla, anche nella grata, tutti i bassi. Però io faccio fare così lì, sostituisco gli alimentatori. No, già, perché ce me l'ho portata a me? Ho fatto un accendere di più. Adesso vediamo, lo smonto, vediamo. L'ho aperto. C'era praticamente l'alimentatore bruciato. L'ho aperto l'alimentatore e c'era praticamente scoppiato dentro tutti i componenti che c'era, tutti sono esplosi, e dopo è esploso. Taglio, prima tutto pulito bene, piattato. C'era il pulito, la parte lì, no? Dove c'era l'alimentatore. Ho provato ad accendere, ho visto che è partito, l'ho spento, ho tutto smontato, tutto pulito, bello, perfetto, e sta sempre andando, una meraviglia. Quando è stata contenta per quello che gli ho preso. Beh. E come mi ha messo un alimentatore nuovo? Certo, io ho tutto pulito. Sì. Per 50 euro, praticamente non gli ho preso niente. Ma come... diciamo, come vanno per spazio, sono tutti quanti uguali come misura, quelli di cui i trasformatori che ci sono dentro, l'alimentatore. Dipende dai watt, capito? Da operaggio che hanno, a secondo, questo che abbiamo messo io a lei è più grande, è molto molto più grande. Sono la misura 300, questa da 500, la misura 600, non lo dico, quella più grande. No, va benissimo, qua PC va benissimo. Ma c'è qualche problema nella ventola, della scheda audio, facciamo un rumore, così fatica. Questa cosa cambiare, vabbè, ho detto perché la prima volta andava benissimo, dopo due giorni dice fa rumore di nuovo, porta me l'ha detto di nuovo, vediamo un po'. Ed era quella ventola lì, l'avevo già pulita perché faceva schifo, Allora cosa ho fatto? Non ho fatto la comprare nuova, l'ho smontata tutta, sono tutta pulita perché dentro era quella avvicinata, l'ho ingrassata con CRC. E che stanno sempre bene. Sì, infatti, lo so per dire, sicuramente ci vorrebbe il CRC dentro. E lo fanno, le ventole lo fanno, come si sporca, ma sempre qualche grano di polvere, di cosa te lo fa. A Corino Condor, ci si. Oh, mi aspetto 10 minuti, dai, arrivo su. Via, ma Corino? Ecco, il mio me l'hanno pulito da poco, il computer fisso. Era tutto pieno di polvere dentro, di insetti morti, tutto c'era lì dentro. E hanno cambiato l'alimentatore, perché l'altro era andato. Ma io me lo sono fatto io. Ho preso il compressorino, c'è un compressorino di quelli presi da Marocchini, ah va bene, sfrutta bene. L'ho portato in terrazzo e poi ho tolto più grosso con un pannello, l'ho fatto scendere. Ho fatto scendere nella pattumiera per non fare casino. Poi ho fatto il terrazzo con il compressore, l'ho soffiato. E è uscito pulito pulito. Io non ne faccio mai. Cioè, non ne tocco con questo, proprio, non mi chiuso. Potrei farlo, ma mi sono sempre rifiutato. Troppo forte di questa la vedo lì. A me piace molto usarlo, ma poco fare manutenzione. E no, vuole fatta la manutenzione, la pulizia del disco, tutte queste cose qua, anche a parte quella esterna, ma anche quella interna vuole fatta. No, ma tu come pulizia del disco tu le intendi? Cioè software, quelle cose le faccio, le frammentazioni, quando fai inutili, quello sì. No, ma dico la roba hardware, no? Sostituzione dei pezzi, quella la fa, la lascio fare al tecnico. Perché non ne voglio fare. Vabbè, se non te la scendi fai bene che fai così. Ogni ognuno ha i suoi limiti, ma ho pulito la vetro, non è che ci punisce che cosa, basta rimuovere due viti, cosa ci vuole, cioè con te che lo tutti e ve li già metto. No, ma c'è cos'è, me l'hanno fatto loro d'ufficio, io non lo sapevo. A me mi si è guardato l'alimentatore, come l'hanno cambiato non ho anche pulito, perché c'è una cosa che non si credeva. Vabbè, se non pulisci mai, certo che così. Comunque, vabbè, credo perché se lo tira dentro tutta la testa, eccetera. Cioè, la vento la butta fuori, però dei forellini che c'è dietro si è aspirato. Io ho visto gente comunque trattare i portatili malissimo, male. Proprio da schifo. Mio cugino, quando l'aveva comprato il portatile, dopo pochi mesi faceva schifo, era tutto sporco di tastiera. Poi c'era la plastica mezza spaccata, lo poggiava sul letto acceso, diventava prendente, si spegneva, tutto graffiato, proprio, sai cosa vuol dire? Trattato da cane, proprio come non trattare un computer. Questo è successo di più, non devi fare. Allora, il mio è nuovo, io ce l'ho 3 anni, questo qui è nuovo, un bel veloce, piccolino. Mi fa fare le cose che voglio in poco spazio, quello che non ha è per non leggere i dischetti eccetera eccetera, non c'ha DVD, diciamo che però a me non mi interessa, non è una cosa per scaricare manuale dal televisore, oramai abbiamo il televisore che c'è anche internet e quindi vedi un monitor da 41 pollici, ti metti a digitare e detto qua fuori. E quelli che si collegano in rete. Aspetta un attimo. Esatto, noi abbiamo il numero nel monitor, abbiamo quel numero lì, lo pressioniamo nel televisore e si collega a rete tranquillamente. Aspetta, quello di servizio di Sky era per caso, no, sto tagliando io. No, non c'è nulla Sky, è il televisore che lo fa. Il mio televisore 3D fa quella, va su internet, eccetera, eccetera, è molto bello. Puoi fare molte cose. Ti puoi scegliere il film su internet, scaricate, lo vedete direttamente. Un sacco di cose farai. Ah, ho capito, quelle cose le conosco poco, non mi sono mai dedicato. Non ho visto qualcosa, oppure hanno anche le bocce, quelle scatole lì, si connettono a internet per vedere il film. Io mi sono perso nella tecnologia, perché ce n'è troppa, ogni volta si inventa qualche cosa. Oltre il 3D, prego il 3D anche. Una volta ero da Euronics, mi sono sentito lavorando di fare una cosa in 3D, una dimostrazione. E c'era il giocatore di baseball che ha tirato la palla. E praticamente mi sono visto arrivare la faccia. E di spinto, mi sono abbassato di scatto, lo sai. sì, è vero. I ballerini. Ci sono dei filmati che ti fanno vedere solo per provarlo, no? Che sono impressi del televisore. E poi ci sono anche dei film, cose che tu puoi scegliere da internet. E comunque abbiamo preso un film noi a noleggio, un film di avventura, che se c'era la neve, tu vedrai com'era. Praticamente usciva dal monitor, se roba che ti la neve ti cadesse addosso. Poi hanno fatto vedere un bel di cose, uno gli ha tirato un calcio alla palla a cattere della gamba, proprio come se uscisse fuori. Sì, è vero. Io l'ho visto da Euroni, era molto molto realistico. Non l'avevo mai visto così. Ne ho visti altri 3D, ti ricordi quelli di qualche anno fa, che però non erano perfetti, perché di adesso stanno migliorando molto. Ogni è perfetto, si vede benissimo. E mi è LG, è un LG. Anche quello che ho visto io era LG. Sì, era un LG. Era anche però grande questo. Non mi ricordo i pollici, ma era però grande. Io ho 42 pollici. Ma ce n'è per i pollici, se vede i colori, tutto qua non va bene. È una cosa che non si crede. Infatti, altro che il tubo cattolico. Poi il mio era LED, immaginate, l'ultima generazione, l'ultimo modello che c'era, quando l'ho comprato era l'ultimo modello dell'LG. Molto l'ho visto là. È un'offerta, 999 euro. Buono, buono. E poi ci ha detto che era l'ultimo modello e anche abbastanza aggiornato, capito? Naturalmente gli occhiali per vedere il 3D bisogna sempre metterli. Ma io ce li quelli leggeri, ce l'ha regalato 15 paia, ce l'ha voluto regalare lui perché stavamo prendendo anche il Blu-ray. Quello da Rassoni dava, anche 4-5 film in 3D. Invece quello dell'LG non dava nessun film. Abbiamo preso quello di getto, vabbè, non ci sarà mio film, ma vi faccio un regalo. Vi regalo 15 paia di occhiali, se lo separo due. Quali sono quelli leggeri, leggeri di plastica colorata? Di riba. Molto. Poi ho visto anche occhiali costosi. Ho visto occhiali da 50-60 euro, ma e non ho capito cosa abbiano in particolare. Sono tipo della Sony o della Philips. Allora, tu dici praticamente di due tipi. C'è quello che ha la batteria e gli occhiali. Per vedere, ci sono quelli invece che, come il mio, che non si mette nulla. Sono leggeri e cose. Dipende dal tipo che prendi, capito? Ah, ecco, ecco. Se è semplice è meglio senza gli occhiali costosi, perché poi se si sfascia gli occhiali a porte di 50 euro. Infatti, altro ci sei, Antonio. Ma che abbasso che se non fa nulla che si vedete. Altro che appena appena, altrimenti che un amplificato. Anche io lo sto perdendo il segnale. E di radio anche. Ciao, ciao. Non era bella. Beh, io vi saluto là, me ne vado tutto quanto a nanna. Mi ha fatto piacere ascoltarvi. Siamo qui tutta la sera, quindi chi vuole venire, chi vuole entrare, a porta aperta a tutti. Ciao a tutti. Dottor Rucco, letti esecutivo. Buonanotte. Ciao Gianni, buonanotte. E ci sentiamo alle prossime. Avanti Antonio, Luca che c'è rimasto. Antonio mi ascolti? Gianni, ancora ci sei? Io ci sono, sto andando. Ti volevo dire, siccome non mi sente Antonio, saluta a tutti anche da parte mia, là, che chiudo anch'io. Tanto adesso devo anche cenare ancora. Saluto a tutti da parte mia e chiudo anch'io allora, tutti gli esecutivi. Chi mi ascolta, buonanotte a tutti. Antonio Luca ti saluta, ti auguro buonanotte anche a te, Luca. Notte, notte a tutti, anche io alla. Allora, sono qua computer. Ciao, ciao. Notte. Stavo cadendo la gattata. Ciao, ciao. Ma ho mangiato già, c'ho una fame. Poi anch'io, ma c'è un motivo, sono due volte che non dormo sempre con questo bruciore allo stomaco, non capisco cosa sia. Qualche cosa mi ha fatto male, sicuramente la salsiccia, ho mangiato salsiccia ma ha grimbato. Beh, non ho mangiato, mi giusto, non ho mangiato, basta, frutta adesso e poi andata. Io, sentiamo, buonanotte. Notte anche da parte di Marco. Non si è abituato a mangiare la salsiccia, non è questo. Ma cazzo di maniero mi mangi. Abituato. Sì, alla salsiccia a casa mia non manca mai. E tanto lo so, volgare di cottura, subito lo mangi. Claudio, attento, Spalviero.